Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR 13. Da Cariatiari Meri condotta l'arca del Signore dalla casa di Abinadab, festeggiando innanzi ad essa Davide con tutto Israele, ma perché Ozza, avendo toccata l'arca, è ucciso dal Signore. David la fece andare in casa di Obededom, il quale da indi in poi è benedetto dal Signore. Ma Davide tenne consulta coi tribuni, e coi centurioni, e con tutti i principi, e disse a tutta l'adunanza d'Israele: se piace a voi, e se quello che io dirò viene dal Signore Dio nostro, mandiamo ad avvisare tutti gli altri nostri fratelli in tutte le regioni d'Israele, e i sacerdoti, e i leviti, che abitano nei sobborghi delle città, che si adunino insieme con noi, per ricondurre a casa nostra l'arca del nostro Dio, perocché noi non abbiamo pensato ad essa a tempi di Saul. E tutta la moltitudine rispose, che si facesse così, perocché a tutto il popolo era stato gradito quel discorso. Davide pertanto convocò tutto Israele da Sior dell'Egitto sino all'ingresso di Emat, a fin di ricondurre l'arca di Dio da Cariatiarim. E salì David, e tutti gli uomini di Israele sul colle di Cariatiarim, che è nella tribù di Giuda, per trasferir di colà l'arca del Signore Dio, il quale è assiso sopra i cherubini, dove si invoca il suo nome. E dalla casa di Abinadab portaron l'arca di Dio sopra un carro nuovo, e Ozza, e il suo fratello guidavano il carro. E David, e tutto quanto Israele davan segni di gioia dinanzi al Signore, cantando con tutte le loro forze dei canti, e suonando cetere, e salteri, e timpani e cimbali, e trombe. Ma quando furon giunti all'aia di Chiton, Ozza stese la mano per reggere l'arca, perocché un bue ricalcitrando l'avea fatta piegare alcun poco. Il Signore pertanto si adirò contro di Ozza, e lo percosse per avere toccata l'arca, ed egli quivi morì dinanzi al Signore. E David si afflisse, perché il Signore avea separato Ozza, e diede a quel luogo il nome di separazione di Ozza, che dura anche in oggi. Ed egli allora ebbe timore di Dio, e disse: come posso io introdurre in mia casa l'arca di Dio? E per tal motivo non la condusse in sua casa, viene a dire, nella città di Davide, ma la fece indirizzare verso la casa di Obededom di Ghet. Quindi l'arca di Dio stette in casa di Obededom per 3 mesi, e il Signore benedisse la casa di lui, e tutte le cose sue. Note, 13,3. Non abbiamo pensato ad essa a tempi di Saul. Per tutto il tempo del regno di Saul non abbiamo pensato a scegliere un luogo più proprio e conveniente per l'arca, che Cariatiarim. 13,5. Da Sior dell'Egitto e Cisior, ovvero Sicor è il Nilo, o piuttosto quel ramo del Nilo, che è più vicino alla Terra Santa. Dice adunque, dal Nilo, cioè dal mezzodì fino ad Emat, che è il settentrione ultimo confine, che divide la Palestina dalla Siria. 13,11. Il Signore avea separato Ozza. Avea separato Ozza dal consorzio del popolo di Dio, lo avea sterminato dalla terra, ovvero, avea separata l'anima di lui dal suo corpo, imperocché solamente per l'uomo la morte e separazione dello spirito dalla carne, non così per gli animali irragionevoli.